interrompere un giudice. La disoccupazione risale a maggio e arriva al 12,6%, in lieve discesa quella giovanile, mentre sale quella delle donne, che sfiora il 14% e tocca i massimi dall'inizio delle serie storiche. Dopo il ritrovamento dei corpi dei tre ragazzi israeliani rapiti è partita la rappresaglia di Israele con raid su Gaza, aggiornato a stasera il gabinetto di sicurezza del governo di Tel Aviv per decidere il piano d'azione. Prima seduta per il nuovo Parlamento europeo, alcuni deputati euroscettici voltano le spalle all'orchestra che suona l'inno alla gioia nel pomeriggio il discorso di Renzi per l'apertura del semestre italiano. Era varicella e non vaiolo. Questo l'esito delle verifiche sull'immigrato arrivato con la nave Orione. Intanto ci sono una serie di fermi per la strage di migranti del 3 ottobre a Lampedusa. Si parla di torture e stupri. Ultimi ottavi di finale ai mondiali, alle 18 Argentina-Svizzera e poi stasera il Belgio contro gli Stati Uniti. Da venerdì i quarti di finale, si parte con Francia-Germania. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete, le potete commentare al 349-238-6666, a effettogiorno@radio24.it oppure sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Infine l'ultimo contatto è il mio account Twitter, se volete, Simone Spezia. Parleremo anche, tra le altre cose, anche se non l'abbiamo inserito nei titoli, del fatto che da oggi scattano delle riduzioni per il roaming internazionale, ossia per fare telefonate quando andate all'estero nel resto d'Europa. Iniziamo però dalla vicenda di Nicolas Sarkozy e facciamo il punto con Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Marco, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, è stato fermato questa mattina l'ex presidente francese. Sì, da questa mattina alle 8 l'ex presidente Sarkozy è nei locali della polizia giudiziaria di Nanterre, alle porte di Parigi, dove è interrogato nell'ambito di un'inchiesta che riguarda il possibile scambio di informazioni sulle inchieste che lo concernono da parte di alcuni magistrati della Corte di Cassazione in cambio della promessa di avanzamenti di carriera. Ecco, tu parlavi all'inizio del reato di concussione, in realtà il reato ha una fisionomia un po' particolare, in Francia si chiama trafic d'influence, in Italia si potrebbe parlare di traffico illecito di influenza, una forma di corruzione, non si tratta in realtà specificamente di una concussione, ma insomma di questo si tratta. L'inchiesta in realtà riguardava i sospetti finanziamenti illeciti da parte della Libia della campagna elettorale presidenziale di Sarkozy del 2007. Nell'ambito di questa inchiesta il telefono del suo avvocato è stato messo sotto controllo e dalle intercettazioni è emerso appunto che il suo avvocato e quindi indirettamente lui venivano tenuti al corrente dell'andamento di alcune inchieste. Sarkozy è coinvolto in sei indagini diverse in Francia, veniva messo al corrente dell'andamento dell'inchiesta da parte di uno o due magistrati. La vicenda è ancora da chiarire e tra l'altro bisognerà vedere quali saranno gli sviluppi. Ecco, proprio ti volevo chiedere proprio a proposito dei possibili sviluppi, forse è un po' presto per dirlo, ma tutto questo potrebbe essere una pietra tombale sulle nuove ambizioni di Sarkozy, che come abbiamo letto spesso nelle ultime settimane era intenzionato a tornare alla ribalta sulla scena politica, a riprendere la guida dell'UMP. Beh, bisogna vedere come va a finire questa vicenda e per quanto tempo si prolungherà in realtà. Il fermo si può concludere dal punto di vista diciamo tecnico, giudiziario, si può concludere o con un rilascio oppure con la presentazione dei magistrati, i quali a loro volta possono proseguire l'interrogatorio e decidere eventualmente un'incriminazione o invece di mantenere Sarkozy nella figura di testimone in questa vicenda. Ecco, dico la seconda di come va a finire, perché se Sarkozy dovesse essere incriminato e se si dovesse arrivare a una sentenza, una condanna prima delle elezioni presidenziali del 2017, è evidente che le chance politiche di Sarkozy sono finite. In caso contrario, paradossalmente questa vicenda potrebbe anche tornargli utile, come abbiamo visto peraltro in lustri precedenti in Italia, cioè nel senso che la destra sta già organizzando una campagna contro la magistratura, accusata di avere un atteggiamento persecutorio nei confronti di Sarkozy, e paradossalmente questo potrebbe renderlo più popolare agli occhi di un certo elettorato. Ti ringrazio, grazie a Marco Musanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. E non è questo il primo caso di scandalo nella vita pubblica francese, anzi, negli ultimi mesi e negli ultimi anni ne abbiamo visti parecchi. Sta a vedere che oltre che al pallone la Francia è più forte di noi anche negli scandali. Questa mattina l'ex presidente Nicolas Sarkozy è stato posto in custodia cautelare dalla polizia francese di Nanterre nell'ambito di un'inchiesta su un presunto caso di concussione. Proprio oggi, sempre a Nanterre, l'udienza al processo penale contro il fotografo Sébastien Valiella, autore delle foto che mostravano l'attrice Julie Gayet con il successore di Sarko, il presidente Hollande. François Hollande, che a sua volta in questi giorni viene attaccato da un altro personaggio controverso, niente meno che l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale Dominique Strauss-Kahn, che prima dello scandalo dell'accusa di stupro da parte di una cameriera del Sofitel di New York nel 2011 sembrava lanciato verso una candidatura all'Elysée. I 50 miliardi di euro di risparmi annunciati? La metà è un imbroglio, dice Strauss-Kahn a Le Point. Hollande ogni volta prende la posizione che più gli fa comodo in base alla situazione, dicendosi più tardi si vedrà. Il governo francese? Per la metà sono degli incapaci. Insomma, l'estate francese degli scandali si preannuncia scoppiettante, proprio quando siamo noi a sembrare inoffensivi, esattamente come al pallone. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo all'estero, però, per spostarci in scenari sostanzialmente di guerra. Iniziamo dall'Ucraina, dove sono 7 i civili morti, altri 7 quelli feriti stamattina dagli spari a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, dove oggi si sono intensificati i combattimenti tra le truppe di Kiev e i miliziani separatisti, dopo la scadenza di un cessate il fuoco che già dall'inizio sembrava piuttosto fragile. E 2 giornalisti russi sono rimasti feriti in un'esplosione, probabilmente dovuta ad un colpo di mortaio, nei pressi di un posto di frontiera nella regione di Lugansk. Ma naturalmente gli occhi in queste ore sono puntati su Israele. Mi unisco alle famiglie nel loro dolore e gli chiedo di farsi forza, ha detto il ministro della difesa israeliano Yaalon, rivolgendosi ai parenti dei 3 ragazzi ebrei rapiti il 12 giugno a Hebron e ritrovati morti ieri, poco distante dalla stessa località della Cisgiordania. Riteniamo Hamas responsabile del loro rapimento e della loro uccisione, ha aggiunto, e faremo i conti con loro. Una dichiarazione che è contemporaneamente di cordoglio e di guerra e che chiarisce che il raid della notte scorsa su 34 obiettivi di Hamas a sud di Gaza non è stato che l'inizio. Ma come si andrà avanti ancora non è noto. Oggi pomeriggio, dopo i funerali dei 3 ragazzi, probabilmente tornerà a riunirsi il Consiglio di difesa del governo israeliano, che già ieri ha discusso a lungo di come reagire, senza però prendere una decisione definitiva. Gli Stati Uniti dichiarano sostegno e amicizia a Israele per questo insensato atto di terrorismo contro giovani innocenti, ha detto il presidente Obama. Gli accordi di pace intanto naufragano tra i razzi palestinesi su Ashkelon e Sderot e la morte di un giovane palestinese in un raid israeliano sul campo profughi di Jenin. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo all'Italia, a parlare di immigrazione innanzitutto. Ci sono naturalmente altre navi in arrivo, mentre si inizia a fare un conto generale su questa prima parte dell'anno. Iniziamo da questo punto e anche da quello che era stato annunciato come un sospetto caso di vaiolo sulla nave Orione. Nino Amadore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, intanto partiamo dalla nave grecale, la nave che è intervenuta in soccorso del peschereccio dove ci sono stati 30 morti. L'arrivo della nave è previsto per le 15, per oggi pomeriggio alle 3 a Pozzallo, e ovviamente ha rimorchio il peschereccio con i cadaveri. In attesa dell'arrivo della grecale, intanto la prefettura e la questura di Ragusa hanno coordinato il trasferimento di circa 350 persone dai centri della provincia con voli charter per altre destinazioni del paese, partenza dall'aeroporto di Comiso. Si era detto che insomma la situazione era critica e che il centro di accoglienza di Pozzallo andava svuotato. Sempre sul fronte arrivi è approdata all'alba invece a Palermo la nave mercantile Mar Atlantic, che battente bandiera delle isole Marshall, con 235 migranti che sono stati soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia, tra di loro 25 donne, una delle quali incinta, e 4 minori. È arrivata a Catania invece la nave Orione, quella con 390 migranti a bordo, ma fra di loro non c'era il profugo, il migrante che aveva i sintomi di una malattia infettiva, che è stato trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma, dove gli è stata diagnosticata la varicella, quindi non vaiolo ma varicella. Da registrare altri 1044 migranti sbarcati a Salerno, dove sono arrivati a bordo della nave Etna. Il punto della situazione in questo momento è questo: nei primi 6 mesi del 2014 i migranti sbarcati in Italia sono oltre 66.000 e hanno superato il totale degli arrivi, che era un record registrato nel 2011 e che era di 63.000. È tutto. Grazie a Nino Amadore per questi aggiornamenti. Tra l'altro si parla di arrivi per 100.000 persone nel 2014, questa è una delle ipotesi che si stanno facendo, naturalmente non si sa quanto possa essere effettivamente, perché dipende da molti elementi, tra cui non ultime le condizioni meteo. Intanto c'è stata una grande operazione di polizia questa mattina, ci sono stati dei fermi per il naufragio, lo ricorderete, quello del 3 ottobre di Lampedusa. Il punto con Monica Ceravolo, buongiorno Monica. Sì, buongiorno, il punto è che esiste una cellula che opera in Italia tra la Sicilia e Roma ed è in contatto con i trafficanti di esseri umani in Nord Africa. Questa cellula italiana si attiva non appena gli immigrati sbarcano lungo le nostre coste, vengono contattati e per così dire reclutati. I trafficanti danno loro ospitalità, forniscono matrimoni di comodo e anche documenti falsi, in cambio ovviamente di denaro. Un passaporto maltese contraffatto può costare anche $7.000, ma per molti è il lascio passare per l'Europa, perché lì, soprattutto Norvegia e Germania, oltre che in America e Canada, che gli immigrati sognano di terminare il loro viaggio della speranza, non in Italia. Questo quadro è il frutto dell'inchiesta della Procura di Palermo, che si è attivata subito dopo la strage di Lampedusa. Come avete detto, quando tutti lo ricordiamo, si contavano 366 bare lungo la banchina. Mesi di indagini, dunque intercettazioni, che hanno portato oggi a 7 arresti, mentre 2 persone sono fuggite. Tra loro e tra le persone catturate invece ci sono 2 uomini ritenuti organizzatori del traffico, un sudanese e un libico, devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. È tutto. Grazie Monica Ceravolo. E certo, l'Italia ha intenzione di mettere l'immigrazione al centro del semestre europeo che si appresta a guidare da oggi. Intanto oggi parte tutta la parte istituzionale, per così dire, l'insediamento dei parlamentari, il discorso di Renzi all'Europarlamento. Beda Romano, che si trova a Strasburgo in trasferta da Bruxelles. Buongiorno Beda. Buongiorno. Allora, ti chiedo innanzitutto di farci un po' di cronaca di questa mattina. Beh, questa mattina si è svolta come previsto. Il presidente uscente dell'Assemblea, il socialdemocratico tedesco Martin Schulz, è stato eletto. È stato eletto con oltre 400 voti sui 600 voti espressi e sui 751 deputati eletti. È stato un voto più o meno in linea con le previsioni, dico più o meno perché in realtà Schulz avrebbe potuto godere di un numero maggiore di suffragi, perché vi è stato un accordo nei giorni scorsi tra popolari, socialisti e liberali, e avrebbe quindi potuto avere oltre 470 voti, ne ha avuti poco più di 400. Quindi ci sono state parecchie defezioni. Non è banale, evidentemente, perché la stessa grande coalizione che ha votato oggi per Schulz dovrà votare la fiducia a Jean-Claude Juncker, il presidente designato alla Commissione. Questo avverrà a metà luglio. Per il resto il Parlamento dovrà eleggere nei prossimi giorni 14 vicepresidenti, 5 questori e soprattutto decidere la composizione delle commissioni parlamentari. È importante perché da quello si valuterà quali sono i temi più interessanti per i deputati. Le presidenze delle commissioni invece verranno decise la settimana prossima. Allora, grazie Beda Romano intanto, e quindi osserveremo con attenzione tutti questi passaggi perché ci daranno anche un'idea dei rapporti di forza all'interno dell'Europarlamento. Parliamo però adesso di Europa per qualcosa di buono, nel senso che da oggi scattano delle nuove tariffe per il roaming internazionale, particolarmente importante per tutti quelli che se ne andranno all'estero nel resto d'Europa, a partire insomma dai prossimi due mesi per le vacanze. Andrea Biondi del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a te, Simone. Allora Andrea, ci spieghi un po' come funziona e quanto ci risparmiamo? Certo, allora era attesa questo taglio delle tariffe del roaming, era atteso perché deriva da un regolamento comunitario che è del 2012, e quindi che cosa si prevede? Ci saranno meno costi per chi utilizza il telefonino in altri paesi dell'Unione Europea, come dicevi, la possibilità di stipulare contratti con diversi operatori limitatamente proprio al servizio di roaming, e addirittura un'allerta quando ci si avvicina alla soglia dei 50 euro di spesa. Queste, diciamo, sono le principali novità per i consumatori, che saranno effettive proprio da oggi, come stabilito dal regolamento comunitario 531 del 2012, che non è, come dire, la prima riduzione, il terzo step significativo di riduzione. C'è da dire che la Commissione europea è dal 2007 che sta progressivamente obbligando le compagnie telefoniche a ridurre i costi per i cittadini dell'Unione europea che si spostano in un altro Stato membro. Dopo 6 anni di interventi UE, insomma, i costi sono molto ridotti. L'intervento più significativo in termini quantitativi sia per lo scaricamento dei dati. C'è un dimezzamento che segue il dimezzamento dello scorso anno, cioè IVA esclusa, 70 centesimi si pagava il 1 luglio del 2012 per megabyte, 45 centesimi il 1 luglio 2013 sempre per megabyte, dal 1 luglio 2014, cioè da oggi, si parla di 20 centesimi, insomma, quindi questo è una cosa molto importante. Benissimo, grazie ad Andrea Biondi. Abbiamo visto anche un post molto chiaro scritto da te con tutti questi dettagli sul tuo blog sul Sole 24 Ore, quindi sul sito del Sole 24 Ore, quindi andate e visitatelo. Elisabetta Fiorito da Montecitorio per fare un punto, o dal Senato per fare un punto sulle riforme. Elisabetta, buongiorno. Sì, proprio così, Simone, da Palazzo Madama, quindi dal Senato, c'è ottimismo nel governo, anche se le distanze restano sulle riforme. Il ministro Maria Elena Boschi è convinta che l'accordo tiene, che si potrà andare in aula a Palazzo Madama già dalla prossima settimana. Un accordo ampio, dice Boschi, premessa di un lavoro spedito. La Commissione Affari Costituzionali si riunirà anche oggi pomeriggio, ma intanto diciamo subito che vengono accantonati i nodi più spinosi. Augusto Minzolini di Forza Italia si dice sempre più convinto sul Senato elettivo e che si appellerà alla libertà di mandato. Vannino Chiti non ritira il suo emendamento, e nella Lega Roberto Calderoli è favorevole alla riduzione del numero dei deputati oltre che di quello dei senatori. In tutto questo il Movimento 5 Stelle attacca, non c'è nessun accordo, si sta perdendo tempo. Da parte di Forza Italia poi Paolo Romani spera nell'approvazione dell'Italicum prima della pausa estiva, quindi della legge elettorale. Questa mattina che cosa ha fatto la Commissione? Ha approvato l'emendamento che garantisce la tutela delle minoranze parlamentari da parte della Camera dei Deputati, e poi il fatto che i parlamentari avranno il dovere di partecipare alle sedute. Quest'ultimo un emendamento a firma 5 Stelle. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Le autorità ucraine dovranno rispondere dei crimini commessi contro la popolazione civile, così una nota del Ministero degli Esteri di Mosca nel giorno nel quale si registrano 7 civili morti e altri 7 feriti a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è in stato di fermo, avrebbe tentato di corrompere un giudice. La disoccupazione risale a maggio, arriva al 12,6%, in lieve discesa quella giovanile, mentre sale quella delle donne che sfiora il 14%. Dopo il ritrovamento dei corpi dei 3 ragazzi israeliani rapiti è partita la rappresaglia di Israele con raid su Gaza. Ne parleremo tra un attimo, torneremo a parlarne tra un attimo. La prima seduta per il nuovo Parlamento europeo, alcuni deputati euroscettici hanno voltato le spalle all'orchestra che suonava l'inno alla gioia. Prima di tornare a parlare di Medio Oriente, facciamo un punto sui mondiali. Oggi ultimo giro di ottavi di finale, Carlo Genta. Ultimo giro di ottavi di finale, tra l'altro torna in campo quello che è stato fino adesso il re di questo mondiale, cioè Lionel Messi, con la sua Argentina. Prima partita eliminazione diretta per loro, l'avversaria è la Svizzera con un calcio europeo che Ieri sera ha rialzato finalmente la testa, qualificando ai quarti e promettendo un grande derby storico tra Germania e Francia, non senza difficoltà. Un'altra europea potrebbe raggiungere i quarti stasera, è il Belgio, contro attenzione però degli Stati Uniti, che ci credono, che sono molto motivati. Quanto alle gare di ieri sera, si conferma il trend di questo mondiale estremamente incerto. Non c'è una partita scontata, non c'è un esito facile per le grandi designate. Ieri la Germania ha avuto bisogno dei supplementari, di un sacco di sofferenza per battere l'Algeria. C'è riuscita 2-1, stesso discorso per la Francia, non è servito qui l'extra time, però una Francia che prima del gol di Pogba aveva sofferto, incartata dalla Nigeria. Vanno avanti tutte e due, si incontreranno al Maracanã di Rio de Janeiro, luogo simbolo, sulla spiaggia di Copacabana, e si incontreranno lì Germania e Francia per capire chi delle due andrà avanti. Tanto Argentina alle 18, ricordo, Belgio Stati Uniti alle 22. E Francia-Germania venerdì alle 18. Bravo, Simone, sei da vedere. Vedi che sono preparato. Grazie Carlo, ti ritroviamo con tutti i convocati a partire dalle 14 per parlare come sempre di questo e di altro. Noi torniamo adesso invece a parlare di quello che sta succedendo in Medio Oriente, in Israele, nella striscia di Gaza. È partita la rappresaglia di Israele, ci sono stati i raid su Gaza dopo il ritrovamento, ve l'abbiamo raccontato, dei corpi dei tre ragazzi israeliani che erano stati rapiti. C'è stata una sorta, da quel che abbiamo appreso, una sorta di scontro all'interno del gabinetto di sicurezza israeliano ieri su quanto dovesse essere decisa l'azione nei confronti di Hamas. Oggi tornerà a riunirsi il gabinetto di sicurezza dopo tutto questo. Saluto Roberto Aliboni, che è consigliere scientifico dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Aliboni, buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Allora, io vorrei cercare con lei di guardare al grande quadro, quello che si chiamerebbe the big picture, per così dire, e cercare di mettere insieme questa vicenda e insomma il rischio che si... molto concreto che si incrementi nuovamente la violenza in quelle aree con quello che sta succedendo in Siria, tanto per dire, e in Iraq. Vorrei che ci aiutasse Aliboni a mettere insieme tutto questo, se ci riusciamo. Beh, secondo me non vanno insieme queste due cose. Sono gli eventi, gli sviluppi che ci sono stati in Israele e Palestina, e che si sono tragicamente conclusi con l'assassinio di questi tre ragazzi, secondo il mio parere fanno parte di tendenze estremamente interne alla questione israelo-palestinese, anzi direi più interne, addirittura interne ai rapporti fra palestinesi. E quindi lei non crede, Aliboni, che ci sia un Israele che, oltre a vivere naturalmente delle questioni interne che sono le consuete pur con l'aggravarsi di una situazione dovuta a questa vicenda, come dire, si senta stretto in una situazione di tensione nell'area che oggettivamente si va incrementando? Sì, certamente Israele si sente sempre più stretto in questa situazione, nella quale fra l'altro si sentono sempre più stretti tutti quanti, però io ho l'impressione che questo episodio così drammatico non sia legato alle dinamiche generali della regione, ma faccia parte di sviluppi che sono solo interni alla Palestina, e propriamente alla Palestina. Secondo me i tre ragazzi sono stati uccisi, sono stati rapiti e poi sono stati uccisi per sabotare la dinamica, peraltro molto debole, del processo della riunificazione di pace fra Hamas e Fatah. Sento una cosa, Aliboni, quali possono essere gli sbocchi, secondo lei, di tutto questo? Degli eventi in Palestina. Degli eventi in Palestina. Degli eventi in Palestina. Nulla si muove prima e nulla si muove dopo. Insomma, per quanto riguarda invece gli sviluppi nella regione, cioè praticamente in Siria e in Iraq, oggi Ma credo che andremo incontro ad altri eventi altrettanto drammatici. Certamente in Iraq l'avanzata, la campagna di ISIS sarà fermata, non credo che prenderanno Baghdad, però questo non è che toglie, non è che risolve i problemi che questa campagna dell'ISIS ha messo in evidenza. L'Iraq, che era apparentemente un paese relativamente al riparo dei grossi sviluppi della Siria, oggi si trova come la Siria sull'orlo di una guerra civile. Non è detto che questa guerra civile non scoppi. E dal punto di vista più generale, dal punto di vista dell'Occidente in particolare, il fatto che si sia installato questo califfato, di cui è stato nominato ieri il califfo nella persona di al-Baghdadi, costituisce un problema nuovo, che tutto quello che è stato fatto finora dall'Occidente, in particolare dagli Stati Uniti, fa pensare che non ci sia né un'interpretazione né gli strumenti o la voglia per intervenire in qualche modo. Molti in Occidente considerano che queste cose siano sviluppi interni al mondo arabo, lasciarli fare, non ci toccheranno più che tanto, non ci toccheranno più che il solito. Allora, io la ringrazio, grazie a Roberto Aliboni, consigliere scientifico dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali, e saluto l'ingegnere Sergio Girotto, project manager di Titan Micoperi. Benvenuto Girotto. Grazie. Allora, il nome di questa azienda l'abbiamo sentito spesso, perché sono quelli che si sono occupati di fatto della Costa Concordia, il nome che abbiamo associato alla Costa Concordia. Questo perché? Perché ieri il governo ha scelto, la nave sarà trasportata a Genova, il relitto sarà smantellato là, con partenza, si presume, e naturalmente immagino se le condizioni del mare lo consentiranno, il 20 di luglio. Girotto, ci spiega come funziona? Sì, dunque il programma, confermiamo la data, naturalmente soggetto a condizioni atmosferiche e completamento delle attività. Attualmente stiamo installando il penultimo dei cassoni necessari, il completamento dell'installazione fisica dei cassoni avverrà entro il fine settimana, poi ci sarà all'incirca una settimana di verifiche, controlli, preparazione. Quindi prevediamo intorno al 12-14, dipendendo dai controlli, per essere pronti ad iniziare il rigaleggiamento, con conclusione intorno al 20, come avete detto, e la partenza del convoglio per Genova. Come sarà trasportata a Genova la Concordia? Che navi la traineranno? Sarà un convoglio con diverse navi, ci saranno circa 10 mezzi navali coinvolti, di cui 4 per la trazione, per il traino del relitto. Il relitto sarà trainato in galleggiamento con 2 rimorchiatori principali a prua e 2 rimorchiatori di supporto che seguiranno, più diversi mezzi che sono pronti ad intervenire per eventuali attività ambientali, perdita di oggetti solidi dalla nave durante il transito o qualche sversamento particolare. Quindi avremo tutta l'attrezzatura necessaria anti-inquinamento ed avremo anche un sistema di verifica costante della qualità delle acque prima e dopo il passaggio del relitto, e anche il controllo, il monitoraggio dei cetacei per evitare impatti con i cetacei, visto che siamo in un'area dove c'è la possibilità di incontrare i cetacei. E certo. Girotto, proprio a proposito di questo, della questione ambientale, come lei sa, non la voglio portare su una polemica interna tra istituzioni locali e governo, però insomma, la regione toscana, che avrebbe voluto portare la Concordia a Piombino, dice il problema è che là si trasporta la nave per 5 giorni e il rischio di sversamento di carburante c'è. E qualcosa ci ha accennato anche lei adesso, dicendo che siete pronti eventualmente ad intervenire. Siete riusciti a quantificare la percentuale di rischio che succeda qualcosa di questo genere? Ma guardi, noi abbiamo operato sul relitto per ormai 2 anni e abbiamo monitorato costantemente tutte le qualità delle acque e abbiamo avuto dal punto di vista ad esempio degli idrocarburi, gli sversamenti che abbiamo potuto constatare in questi 2 anni sono stati veramente minimi, cioè quello che è rimasto degli idrocarburi è assolutamente ben contenuto dal nostro punto di vista e non abbiamo avuto prova contraria. Viceversa, la qualità delle acque è molto elevata, noi abbiamo tenuto costantemente sotto controllo e lo teniamo tuttora tutte le aree in comunicazione con l'esterno e abbiamo avuto conferma che la qualità è ottima. Il potenziale di sversamenti o di perdite secondo la nostra valutazione è veramente minimo. La ringrazio, grazie a Sergio Girotto, l'ingegner Sergio Girotto, project manager di Titan, mi copri proprio per averci chiarito tutto questo. Noi ci fermiamo, c'è una pausa, poi c'è la borsa e poi nella seconda parte della trasmissione parleremo di scioperi, perché oggi sono stati diffusi i dati dell'anno, si è parlato di rischio di tensioni sociali nella relazione annuale dell'autorità. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Miliziani separatisti in Ucraina stanno assaltando il comando regionale della polizia a Donetsk. Un agente è stato ucciso e altri 2 sono rimasti feriti. Sono in gravi condizioni. Questa mattina erano stati uccisi 7 civili nell'Ucraina orientale. Mosca dice Kiev risponderà delle uccisioni di civili. La disoccupazione risale a maggio al 12,6%, in lieve discesa quella giovanile, mentre sale quella delle donne che sfiora il 14%. L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è in stato di fermo, l'ipotesi è concussione, avrebbe tentato di corrompere un giudice. Dopo il ritrovamento dei corpi dei 3 ragazzi israeliani rapiti è partita la rappresaglia di Israele con raid su Gaza. Prima seduta per il nuovo Parlamento europeo, nel pomeriggio il discorso di Renzi per l'apertura del semestre italiano. La borsa. Borse in diretta. Bene oggi, più 0,97% il FTSE MIB, altrettanto il FTSE All Share con l'Europa che va lievemente peggio, Parigi guadagna comunque lo 0,61%, Francoforte lo 0,3%, Londra mezzo punto percentuale. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Allora, come mai la borsa va bene oggi? Ma la borsa va bene, partita con un tono positivo, questo grazie a dati positivi sul manifatturiero cinese che confermano come la ripresa stia prendendo tono a livello mondiale. Lo stesso dato sul manifatturiero europeo è in calo ma resta sopra i 50 punti, una quota che separa una fase espansiva da una recessiva ed è sopra i 50 punti per il 12° mese consecutivo. Adesso è atteso lo stesso dato dagli Stati Uniti. Piazza Affari va meglio, come dicevi, degli altri listini, questo grazie a una ripresa del settore bancario che aveva perso molto ieri. Grazie, grazie anche per oggi ad Isabella Tasso e buona giornata. Buona giornata. Lo sapevi che tutti i rifiuti prodotti da aziende, negozi, artigiani e professionisti sono rifiuti speciali? Che la loro gestione è una tua precisa responsabilità? E che se te ne liberi dandoli a chi non smaltisce correttamente rischi sanzioni e accertamenti fiscali? Il consorzio Ecolite è la vera soluzione al tuo problema e Confaispazio ti assicura corretta gestione, tracciabilità, documenti contabili e costi realmente bassi. Non rischiare e proteggi l'ambiente. Ecolite.it. Servizio assistenza software gestionale, io mi dica! Sì, ecco, non riesco ad adattare il vostro software alla mia nuova linea produttiva. Nein, impossibile! Azienda te vi ha data software, nein viceversa! La flessibilità del tuo software gestionale ha ampi margini di miglioramento? Ora puoi cambiare. Da 35 anni, Team System sviluppa una gamma di innovativi software gestionali per aziende e professionisti che sanno adeguarsi a un mercato che cambia. Semplifica la gestione della tua impresa con Team System. www.teamsystem.com. Bentrovati amici ascoltatori, siamo collegati dallo stadio di Obi per la finalissima fra la squadra delle offerte mondiali e quella dei vantaggi imbattibili, una partita da non perdere, ci siamo! La convenienza è iniziata! Con Obi scendi in campo la convenienza, ti aspettiamo con vantaggi imbattibili e offerte mondiali! Un esempio, idropittura Fresh Max Mayer 10 litri a 29,90€. Obi, il tuo mondo con le tue mani. Offerte valide dal 26 giugno al 13 luglio. Stiamo preparando per voi Platone, la caverna della informazione. Una trasmissione con grandi inchieste. Lei sposerebbe un mafioso? Perché no? Sei una brava persona. Grandi ospiti. Una parola è troppo, però due sono poche. È così. Grandi battute. La Boschi, che è di Prato forse? Boschi Prato. Ma soprattutto grandi conduttori. Tu sai chi sono? So che tu, Leonardo Manera, ci sei. E anche tu, Alessandro Milan. E allora sarà dura. Ma italiani, strana gente. Platone, la caverna dell'informazione. Il sabato alle 9 su Radio 24. In collaborazione con... Cerchi agenti di commercio? Agenti.it ti invita a Forum Agenti Milano, dove trovi i tuoi agenti di commercio. 28 e 29 novembre, Fiera Milano City. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Roberto Alesse, presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sugli scioperi. Questo è il nome lungo, la chiamiamo autorità scioperi per semplificare. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a lei. Allora, oggi c'è stata la relazione annuale, un numero diabolico, quello degli scioperi di quest'anno, perché sono stati 666, comunque sono quasi due stop al giorno. Quella della relazione annuale dell'autorità di garanzia per gli scioperi è caduta in un momento di grande sofferenza per i servizi pubblici essenziali. Alcuni settori, penso in particolare a quello relativo all'igiene ambientale, vale a dire raccolta e smaltimento di rifiuti, penso anche al settore del trasporto pubblico locale, vivono oggettivamente in una situazione di prefallimento. Ecco, in questo scenario così complesso, che determina peraltro un costante pericolo di pregiudizio ai diritti dei cittadini utenti, l'autorità è chiamata, tra le tante cose che deve fare, ad accertare le responsabilità di chi è la causa dell'insorgenza o dell'aggravamento del conflitto collettivo di lavoro. E queste responsabilità sono imputabili anche alle amministrazioni e alle imprese che erogano i servizi pubblici, nonché perfino sono imputabili a quegli enti appaltanti che bandiscono le gare di appalto e spesso lo fanno in assenza di adeguata copertura finanziaria, allora, perché discende ovviamente una situazione drammatica per i lavoratori che non ricevono costantemente le retribuzioni che già di per sé sono basse. Questo è un fenomeno su cui occorre indagare a fondo e che fa e che va assolutamente stroncato. Allora, Presidente, nel 2013 avete comminato sanzioni per 113.000 euro contro le 365.000 del 2012. Come mai questo calo? Perché, insomma, se, come dire, la conflittualità si mantiene più o meno sullo stesso livello, cosa è successo? C'è stata una regolarizzazione degli scioperi, per così dire? No, guardi, come ho detto oggi al Senato nel corso della presentazione della relazione, le proclamazioni di sciopero su tutto il territorio nazionale nel corso del 2013, ripeto, in tutti i settori dei servizi pubblici essenziali, sono state 2.339. Si passa a 666 effettive giornate di sciopero grazie agli interventi preventivi dell'autorità, con cui abbiamo, come dire, appunto rilevato, cioè, tutte le volte che gli avete detto non potete scioperare. Quindi anche il fatto che le sanzioni sono state minori rispetto all'anno 2012 è una testimonianza del fatto che l'attività di prevenzione del conflitto collettivo di lavoro posta in essere dall'autorità sortisce effetti positivi. Quindi un maggiore rispetto delle regole, per così dire, la semplifico molto. Un maggiore rispetto delle regole e una maggiore, come dire, osservanza rispetto, diciamo, appunto alle indicazioni immediate che l'autorità di garanzia formula nei confronti dei soggetti che proclamano scioperi in modo illegittimo. C'è grande attenzione rispetto all'attività istituzionale dell'autorità di garanzia, anche perché è forte effettivamente di un potere sanzionatorio evidentemente. Se riesce, Presidente, in 20 secondi, lei ha parlato di un rischio di effetto domino per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, che poi è una delle cose che ci interessa di più alla fine. Che cosa intende? Beh, questo è il settore diciamo più esplosivo e che soffre da molto tempo di gravi realtà problemi. Io oggi ho lanciato un appello al governo ad aprire immediatamente dei tavoli con i rappresentanti di categorie e con i sindacati, perché è un fenomeno che, sebbene diciamo appunto sia attentamente monitorato dall'autorità di garanzia, può dare nell'immediato problemi strutturali ancora più pesanti, con ripercussioni gravi sull'intero territorio nazionale. Grazie Roberto Lesse, presidente dell'autorità di garanzia sul diritto allo sciopero. E visto che abbiamo parlato di scioperi, parliamo di disoccupazione con i dati di oggi. Nuovo allarme dell'Istat dopo quello di ieri sul rischio di recessione a giugno. Il dato diffuso oggi, proprio nella giornata in cui l'Italia apre il semestre europeo, riguarda la disoccupazione. A maggio è tornata a salire al 12,6%, un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile e di 0,5 nei 12 mesi. Siamo però sotto al massimo storico del 12,7 di gennaio e febbraio, sottolineano i tecnici dell'istituto. Ma a preoccupare sempre la disoccupazione giovanile, che rimane sostanzialmente ferma al 43%, in calo di 0,3 punti percentuali su aprile, ma in crescita di 4,2 punti sull'anno. In totale, in Italia i senza lavoro a maggio rappresentano un esercito di 3.222.000 persone, 127.000 in più rispetto allo stesso mese dell'anno passato. Ma c'è un ultimo dato che dovrebbe far riflettere: il tasso delle donne senza lavoro, che sfiora il 14%, e qui si parla di record. Il picco infatti non è stato mai raggiunto dall'inizio delle serie storiche dell'Istat nel 2004, un tasso cresciuto sia sul mese che sull'anno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America, America, shed its grace on thee. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, ho iniziato con questa allegrissima tarantella della pasta, che fa un po' da cornice a quella che è la trasmissione di oggi, e cioè alla Fancy Food 2014. Cos'è Fancy Food? Fancy Food è una grande fiera dell'agroalimentare che si tiene a New York, del cibo diciamo interessante, curioso, particolare, sofisticato, di alto livello, dove l'Italia, nel contesto di una partecipazione di 2730 espositori, gioca la parte abbastanza del leone per gli esteri, perché di questi 1500 sono americani, quindi ovviamente la maggioranza sono americani, però sui 49 paesi rappresentati l'Italia è al numero uno, l'Italia al numero uno, poi la Cina, la Spagna, Francia e Turchia nell'ordine coi loro padiglioni. L'Italia ha 350 imprese, 2600 metri quadri. L'intera esposizione è stata organizzata e coordinata dall'ICE, dall'Istituto Italiano del Commercio Estero. Non siamo i primi per l'esportazione agroalimentare, perché per esempio il Canada è avanti a noi, la Cina è avanti a noi, però ci affermiamo per quelli che sono i prodotti tradizionali nostri, la pasta, l'olio d'oliva. Olio d'oliva abbiamo il 26% del mercato, prodotti conservati il 20%, quindi siamo primi in categorie chiave. Questo nonostante l'Italia sia stato oggetto di vari attacchi sull'olio d'oliva, per esempio sul New York Times, oppure sulla pasta, oppure sul pino grigio, tant'è che ho dedicato varie trasmissioni a questo argomento, che mi sembra molto interessante e importante per noi nel momento in cui il mercato è sempre più competitivo, nel momento in cui all'Organizzazione Mondiale per la Sanità si sta immaginando di ridurre dal 10 al 5% le quote di zucchero, cosa che di nuovo ci danneggerebbe. Abbiamo parlato di dieta equilibrata e così via. Però c'è una curiosità di cui voglio parlare. Mentre c'è questo fancy food in corso, il New York Magazine ha pubblicato una lista di ristoranti che hanno delle specialità considerate raffinatissime. Chiaramente New York fa tendenza, fa trend, dunque l'idea è che da questi nuovi consumi sofisticati, raffinati, possa aggiungere una concorrenza per noi, perché diciamo non sono prodotti dove saremmo tradizionalmente fortissimi. Di cosa parlo? Di scarafaggi, di formiche, di millepiedi, di insetti. In molti ristoranti americani stanno diventando la nuova moda. E dunque c'è da preoccuparsi, perché se invece di un piatto di pasta ci si fa un piattino di scarafaggi fritti, beh, è chiaro che in prospettiva per noi le cose potranno essere più difficili. E allora, visto che c'è il fancy food, visto che c'è questa nuova tendenza, ho incontrato proprio al fancy food un interlocutore d'eccezione che ci potrà dire cosa pensa di questa tendenza e in generale cosa facciamo sul fronte agroalimentare italiano. America 24. Oh, con me il ministro dell'agricoltura Martina. Buongiorno ministro. Buongiorno. Ecco, dunque lei ha sentito, insomma, qui ci attaccano da ogni parte, perché ci hanno attaccato sullo zucchero, sull'olio. Adesso c'è l'arma degli scarafaggi, ma noi potremo, pensa, competere e esportare anche qualche scarafaggio, oppure ci teniamo fuori da questa mischia? Guardi, mi sembra un'arma spuntata, onestamente. In bocca al lupo a chi avrà il coraggio di assaggiare anche queste prelibatezze, diciamo, ma io preferisco un buon piatto di pasta e sono convinto che anche i newyorkesi al dunque preferiranno un buon piatto di pasta. Ci sono stati, devo dire, torno, non perché io creda nella conspiracy, nelle teorie del complotto, però ci sono stati dei messaggi negativi nei confronti di alcuni prodotti italiani qua in America, per esempio l'olio d'oliva, qualcuno ha detto che addirittura era micidiale perché era fatto male, un articolo, un attacco contro la pasta che lei ama tantissimo, dicendo che sono andati a visitare gli impianti alla Barilla, poi la pasta era scotta. E poi appunto quest'ultima cosa più recente sullo zucchero. Ecco, a parte queste polemiche, come va l'export italiano e l'alimentare in America? Cosa ha visto al fancy food? Ho visto una presenza straordinaria dell'Italia, oltre 350 espositori, siamo i primi rappresentati in questa importantissima fiera agroalimentare per gli Stati Uniti. Quindi ho visto la prova provata che il sistema Italia, quando lavora bene in squadra, fa la differenza. Ho visto tanta qualità e soprattutto ho visto buyers e interlocutori del mercato statunitense cercare il prodotto italiano. E quindi vengono alla fiera, raccontiamolo, così spieghiamo. Ma vengono alla fiera, vengono con espositori, assolutamente sì, compratori. Si figuri che noi abbiamo portato quest'anno anche 50 giovani imprenditori agricoli italiani a Fancy Food grazie a un progetto speciale del mio ministero, e sono attualmente in fiera a confrontarsi con i buyers statunitensi sui loro prodotti, sulle loro tipicità. Quindi vedo un mercato potenzialmente straordinario, numeri già importanti, perché noi il 2013 l'abbiamo chiuso con 4 miliardi di euro di esportazioni negli Stati Uniti agroalimentari. Ecco, quindi il mercato americano di per sé con 4 miliardi di euro. Siamo al primo mercato extra UE per l'Italia, quindi un mercato importantissimo. Siamo gli ottavi però negli Stati Uniti per esportazioni agroalimentari, e questo ci dice anche del margine enorme di crescita che abbiamo. Però come puntiamo su questa crescita? Magari anche promuovendo l'Expo? L'Expo può essere un'occasione? Sicuramente Expo può essere una grande occasione, lo può essere soprattutto ovviamente l'anno prossimo, quando per 6 mesi noi ospiteremo un grande dibattito internazionale sul tema della nutrizione. A breve presenteremo anche il nostro piano straordinario per l'internazionalizzazione dell'agroalimentare. A Washington incontrerò Tom Vilsack, che è il segretario all'agricoltura statunitense, con lui discuteremo di alcune questioni cruciali per il rapporto tra UE e USA e per l'Italia, ecco, agroalimentare. Alcune cose sono delle barriere tariffarie, diciamo non tariffarie, cioè delle scuse mediche, per esempio sul prosciutto. Affronterà questo, anche cercherà questo. Di discutere anche della questione degli zuccheri? Sicuramente discuteremo dell'accordo commerciale UE-USA, il TTIP, e dentro questo accordo, che si deve ancora scrivere soprattutto nella sua parte agricola, le grandi questioni tariffarie e non tariffarie, le grandi questioni fitosanitarie e sanitarie che ancora oggi limitano fortemente la nostra capacità esportativa su alcuni fronti, penso in particolare ai salumi e a tutta la filiera delle carni. E discuteremo con lui sicuramente anche di questa questione dello zucchero e anche di una questione di non poco conto, che è questo tema della proprietà dei domini internet, che oggi sta in capo ancora a questo soggetto privato statunitense, l'ICANN, e che invece noi chiediamo venga regolamentata in ambito internazionale con appunto regole nuove. Ecco, ma senta, a parte la pasta o una buona pizza, ma ha provato un hamburger, visto che qui negli Stati Uniti, oppure? Certo, assolutamente sì. ripeto, non lo scambierei mai con un piatto di pasta, però mi rendo conto, anzi apprezzo anche l'hamburger ovviamente, e devo dire che quando passo di qui non si può non mangiare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguiteci su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, passando dall'alimentare alla musica e alle classifiche, Forbes ha pubblicato la classifica dei cantanti più ricchi, quelli che hanno guadagnato di più nel corso del 2013. Chi vince? Vince Beyoncé. Sapete quanto ha guadagnato? $115 milioni in un anno. E beh, è beata lei. E dunque a Beyoncé, che tra l'altro ha messo in scena in questi giorni uno spettacolo con il marito Jay-Z, dedichiamo la canzone di oggi, Drunk in Love, ubriacata d'amore. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Ed è tutto per Effetto Giorno, grazie a Filippo Auregi in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 e come sempre tutti voi per l'ascolto. Effetto Giorno a radio24.it per scriverci, il mio account Twitter se volete, Simone Spezia, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Ci risentiamo tra un attimo con GR24. Effetto Giorno torna come sempre domani alle 13:00.